forte come il vento, perché hai liberato l'anima. Non avrei mai pensato che potessi essere così fragile. Le cose che non hai mai appreso alla tua realtà. Hai distrutto ogni filosofia, lasciando il corpo ai diavoli. Come il vento, perché